Proprio mentre parlavo è arrivata la notizia che l'inviato speciale delle Nazioni Unite ha avuto l'autorizzazione a recarsi in Birmania. Penso che è un piccolissimo passo, ho visto le prime dichiarazioni Cina-Giappone. Mi auguro che l'India ben presto faccia sentire la sua voce, perché queste sono le potenze, diciamo, che hanno più leva sulla Birmania. Quindi questo vuol dire, da parte nostra, senza pretendere che saremo noi a risolvere il problema, continuare però a lavorare in questa direzione, a livello d'opinione pubblica, a livello di istituzioni, di governi.